Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, intanto oltreoceano. È una cifra inaspettata. Secondo il censimento appena realizzato, sono circa 500.000 gli italiani che vivono negli Stati Uniti d'America e alcuni peraltro sono esuli politici o figli di esuli politici. Hanno seguito quindi quel che succedeva nella loro terra, seppure con una certa distrazione, perché se l'Europa ricorderà l'anno appena passato come quello dell'unità italiana, l'America lo ricorderà come quello nel quale si è divisa in due. 11 stati hanno lasciato l'Unione ed è iniziata una guerra tra questi ultimi, che si fanno chiamare Confederati, e il resto degli Stati Uniti. Il presidente Abraham Lincoln sta affrontando una sfida difficilissima. Straordinario nello scaldare le platee, guardato con ammirazione negli ambienti progressisti del vecchio continente, ha da sempre sostenuto posizioni antischiaviste, prima che con un problema politico però Lincoln si è scontrato con un problema economico. Gli schiavi sono poco meno di 4 milioni, molto concentrati negli stati del sud, che li considerano fondamentali, viste le grandi estensioni agricole e la scarsità di popolazione. Nel luglio dell'anno scorso, ad appena 5 mesi dall'insediamento di Lincoln, abbiamo potuto assistere alla prima vera battaglia di terra in Virginia, vicino alla città di Manassas. Battaglia di Bull Run, così l'hanno chiamata, dal nome dell'affluente del Potomac intorno al quale si sono svolti i fatti. Una vittoria per i confederati che per qualche ora ha fatto temere un assalto a Washington. La capitale si trova ad appena 30 miglia da qua. Ed è qua, a Manassas, che si sono visti per la prima volta gli italiani. Si tratta di un reggimento nordista che ha preso il nome di Garibaldi Guards. Da quello che siamo riusciti ad apprendere, però, un altro gruppo di soldati italiani ha preso lo stesso nome, ma sotto insegne confederate in Louisiana. E sembra, ma le notizie sul sud, qua al nord, arrivano col contagocce, che alcuni ex soldati e ufficiali borbonici si siano arruolati con gli stati secessionisti. Simone Spezia, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, Washington.